benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 per Radio Big World. Primo turno quasi archiviato, probabilmente in dirittura di arrivo per voi che ascolterete questo podcast appena uscito. Qui stiamo registrando di giovedì pomeriggio con l'idea di fare il punto della situazione per quanto riguarda le sfide in corso, quelle già risolte e i turni a venire. Iniziamo subito con la Eastern Conference. Tra Toronto Raptors e Washington Wizards la serie era ferma sul 2-2 prima della partita decisiva di stanotte. Avevo detto che Toronto appariva superiore a livello di organizzazione di gioco principalmente dopo le prime due sfide casalinghe, ma che giocare nella capitale, in casa di Wall e Bill, non sarebbe stato facile. Ed infatti Wall gioca due discrete partitine per neutralizzare un DeRozan strepitoso soprattutto in gara 4 con 35 punti, dopo aver vinto di 19 punti in gara 3. In gara 5 l'inerzia della serie la decide nuovamente il vantaggio campo, con Toronto che si porta sul 3-2 grazie ai 32 punti del solito DeMar DeRozan e la doppia da 17-10 in materia di punti e assist di Kyle Lowry. Adesso tutto è rimandato alla prossima sfida in quel di Washington, che potrebbe, seguendo la linea tracciata sin da gara 1, aprire le porte per una settima sfida decisiva in quel del Canada. Raptors che restano comunque, per completezza e concretezza, la squadra favorita nella Eastern al momento a mio avviso, almeno che ovviamente Wizards non completino un miracolo ad oggi impossibile con un colpo di coda incredibile. La vincente tra queste due affronterà la risultante di un'assoluta battaglia sia fisica che a livello di nervi, quella che emergerà dalla sfida tra Cleveland e Indiana, o meglio tra LeBron James ed una squadra tosta, unita, decisa a vender cara la pelle. In gara 3 la rimonta di Indiana è stata favorita da una prestazione fantasmagorica di Bogdanovic, soprattutto nel finale e soprattutto da dietro l'arco. Nella sfida seguente il sorpasso nel finale lo ha attuato stavolta la squadra del Re, che al momento sembra poter fare affidamento maggiormente solo in Kyle Korver e J.R. Smith, quest'ultimo principalmente in difesa. In gara 5 quella decisiva per determinare un'inerzia e regalare il primo match point alla squadra vincente, Cleveland riesce a conquistare un vantaggio grazie ancora una volta al suo Re. Un Re che domina letteralmente la sfida con 44 punti, 10 rimbalzi ed 8 assist, ma ancora una volta, malgrado siano palese dimostrazioni di grandezza, i numeri non sono sufficienti a raccontare la prova da trascinatore in campo per i vice campioni del mondo. Con 22 punti infatti ed una serie di canestri strepitosi, Domantas Sabonis aveva clamorosamente portato in parità Indiana nei secondi finali. Anzi, a volerla dir tutta, con una palla persa di James sulla linea di fondo i Pacers avevano in mano anche il tiro della vittoria. Penetrazione di Victor Oladipo che con decisione sale verso il ferro per un appoggio che sembra già completato, ma che incontra la clamorosa stoppatona da dietro di LeBron che cancella il tentativo. Ci sono a questo punto circa 3 secondi sul cronometro e rimessa per Cleveland a centrocampo. La palla arriva inevitabilmente a James, che scocca una tripla strutturalmente perfetta per verticalità e meccanica, che finisce inevitabilmente dentro il canestro ovviamente. Gara e vantaggio della serie per LeBron e di suoi, quindi alla fine. Ci siamo domandati nelle puntate precedenti quanto Cleveland sia LeBron dipendente e quanto LeBron possa essere capace di vincere da solo una serie. Per quanto riguarda la prima domanda è anche inutile rispondere, ci pensano sufficientemente i numeri e le immagini. Rispetto alla seconda invece, un tantino di attualità al momento per la verità, direi che se esiste un giocatore capace di vincere una serie da solo in questo momento, quello è proprio LeBron James. Magari non potrà abbattere una squadra avversaria vincendo 4 partite a 0, magari avrà bisogno di 7 gare con alti e bassi, ma indubbiamente se esiste un regista dominatore del gioco in questa fase storica, quello può essere solo e soltanto lui. Riuscirà a completare la prima tappa di un'impresa che, raggiungendo la finale con questa situazione di squadra, sarebbe epica? Registrando di giovedì pomeriggio non possiamo sapere ancora come andrà a finire e se sarà già finita al momento in cui ascolterete questo podcast, ma noi ce la sentiamo di sbilanciarci dicendo decisamente che sì, James questa serie la vincerà da solo, per buona pace di una splendida Indiana che si merita comunque applausi e per la quale il futuro sarà sicuramente roseo. Risolta invece in 5 partite la sfida tra Philadelphia e Miami, con i Sixers capaci di rispondere al pareggio di Wade e compagni con 2 convincenti vittorie fuori casa, coincidenti con il determinante rientro di Joel Embiid. Nei minuti a disposizione il centrone di origine africana ha assolutamente dominato l'area pitturata, grazie anche alla latitanza di Hassan Whiteside dall'altra parte. Tremendamente capace di essere un fattore, Joelon ha potuto appoggiarsi ad un contorno che fa brillare gli occhi e solamente a guardarlo, in un sistema di gioco che a tratti sfiora la perfezione, con l'assoluto equilibrio tra le incursioni di Simmons e le soluzioni perimetrali dei vari Redick. 27 punti nella decisiva gara 5 con 5 triple, Covington, Iasova e Bellinelli. Poco ha importato se il rookie Fultz è stato tenuto a riposo nella coda della serie, soprattutto quando l'affidabilità di un roster profondo e l'entusiasmo di un ambiente voglioso di tornare a vedere pallacanestro di questo livello spinge la squadra. Tra i tanti, decisivo il nostro Marco Bellinelli, come già anticipato nelle puntate precedenti, capace di confermarsi su medie pari a 16 punti per gara in questo primo turno, importante nella costruzione di gioco anche quando il pallone decide di non entrare da dietro l'arco, come nella decisiva gara 5. è molto presto per dirlo, e Miami comunque apparsa da limitate ambizioni seppur forte di un Wade stoico e del solito Dragic, ma questi 76ers appaiono capaci di poter sognare illimitatamente, quantomeno per quel che riguarda la storia dei playoff nella Eastern, arrivando al secondo turno con un entusiasmo ed uno stato di forma invidiabile al momento da qualsiasi altra squadra in corsa per il titolo finale. Affronteranno la vincente di una sfida fatta di fisicità e tensione come quella tra Boston e Milwaukee, che gara dopo gara sembra poter cementificare una rivalità futura. Sappiamo benissimo che le defezioni in quel di Boston rendono impossibili, anziché no, eventuali sogni di gloria in questa stagione, ma la versione dei Celtics senza Irving appare tremendamente carica di agonismo, cuore e potenzialità. Anche se i giovanissimi Bucks hanno saputo rispondere con altrettanta determinazione nelle due sfide casalinghe, rimettendo in parità una serie che poteva rischiare di sfuggire loro dalle mani. In tutto questo si sono letteralmente trasformati sia Eric Bledsoe che quello che avevo definito il fantasma di Jabari Parker. Anzi, per certi versi, il contributo di quest'ultimo è risultato fondamentale per le due vittorie interne dei Bucks. In gara 5 al TD Garden, un'ulteriore scossa di adrenalina per il pubblico e per i ragazzi di Brad Stevens è stata rappresentata dal rientro di un Marcus Smart voglioso di lottare su tutti i palloni a disposizione, tipo quello del possesso decisivo mantenuto in volata, regalando il potenziale match point per la prossima sfida ai suoi. Al momento in cui stiamo registrando non sappiamo come sarà andata o meno gara 6, ma personalmente credo e mi auguro che questa serie abbia tutti i numeri per potersi concludere con una bellissima gara 7. Contro Milwaukee, quel Rozier che sta egregiamente sostituendo Kyrie Irving viaggia al momento con 16 punti e poco meno di 7 assist per allacciata di scarpe. Inutile dire che, mantenendo questo livello, può essere decisivo per il passaggio eventuale del turno, un passaggio per il quale Boston resta comunque favorita nonostante Giannis Antetokounmpo e compagni. Passando alla Western Conference, i Rockets di Mike D'Antoni sono giunti con il vento in poppa alla potenzialmente decisiva gara 5 contro Minnesota, forti di una convincente vittoria in gara 4 fatta di triple e James Harden, dopo che i Timberwolves avevano timidamente provato a reinserirsi nella serie in gara 3 tra le mura amiche. A differenza delle altre giovani e promettenti squadre dell'Est, Minnesota appare ad oggi veramente indietro rispetto al valore dei vari Towns, Wiggins e Butler, con un Jeff Teague a tratti desaparecido ed un commovente Derrick Rose, uno dei pochi capace di provare a mettere grinta nella marcatura del barbone, producendo offensivamente quasi 15 punti per allacciata di scarpe partendo dalla panchina. Anche in gara 5 Houston chiude la serie apparentemente senza sudare troppo. Nella sfida tra centri, un clamoroso Capela sconfigge il pari ruolo Karl Anthony Towns e qui ho già detto tutto. Per lo svizzero ci sono 26 punti e 15 rimbalzi con altri 6 giocatori, Gordon dalla panchina, abbondantemente in doppia cifra, e qualche giorno di riposo per Houston in attesa di conoscere il nome dell'avversaria al secondo turno. Sanguinosa sfida invece quella tra Utah Jazz e Oklahoma City Thunders, con una gara 4 drammatica nel risultato per Westbrook e compagni. Quei Big 3 costruiti per mettere in difficoltà i Warriors si sono presentati in gara 5 tra le mura amiche sull'orlo del baratro, dopo aver ceduto agli affondi di una Utah capace di capitalizzare al meglio le sfide interne portandosi sul 3-1. Soprattutto con un Ricky Rubio scatenato ed un Donovan Mitchell che lascia veramente a bocca aperta, apparendo a tratti il giocatore più vicino per attitudine e sete di competizione al tanto amato e mai dimenticato Kobe Bryant. Come detto, il campo di Salt Lake City è apparso in gara 4 un'autentica tonnara, dove i due roster si sono affrontati senza esclusione di colpi anche proibiti. A dispetto della maggiore esperienza in previsione, ne hanno risentito i Thunders, che hanno chiuso con percentuale al tiro pessime, problemi di falli e livelli di nervosismo altissimi. Quando un Joe Ingles si permette di bullizzare a più riprese le stelle della propria squadra segnando anche 20 punti, è il caso di correre ai ripari. Questione di stretta attualità proprio nella drammaticamente decisiva gara 5 ad Oklahoma City, dove Utah parte fortissimo nei primi due quarti mantenendosi saldamente in vantaggio. I ragazzi di Billy Donovan segnano appena 12 punti nella seconda frazione e tutto lascia prevedere un fragoroso schianto al suolo per la stagione dei tanto attesi Big 3. In realtà poi ci pensano Westbrook e Paul George a risollevare la partita e salvare momentaneamente la serie. Russ gioca finalmente da MVP uscente, chiudendo con 45 punti, 15 rimbalzi e 7 assist. George lo aiuta con 34 punti. Oklahoma City non chiude tirando bene, ma stavolta i Jazz tirano peggio. Chissà che questa vittoria per 107-99 possa generare una scossa decisiva per provare a forzare gara 7 nello Utah. Personalmente continuo a coltivare serissimi dubbi su questi ragazzi, considerando l'ennesima prova in cor loro di Carmelo Anthony, il quale continua ad essere atteso da una prestazione quantomeno vicina al suo livello storico. Accadesse in gara 6, forse potremmo goderci una bella e sanguinosa e combattuta decisiva gara 7 in quel di Oklahoma. In questo momento, considerando tutto, prossimo comunque i Jazz al secondo turno, anche se voi che state ascoltando potrete sicuramente già smentirmi o meno. Clamoroso upset invece quello dei Pelicans sui poveri Trail Blazers, sconfitti con uno sweep senza tante cose da dire sopra. se non che, come già accennato nella settimana precedente ovviamente, quella serie di ingranaggi che apparivano perfettamente rodati nel finale del regular season per Poland si sono inceppati all'incepparsi al tiro della coppia McCallum-Lillard, oltre a sottolineare quanto, ancora una volta, Rajon Rondo sia capace di elevare il proprio gioco alla vista dei momenti decisivi della stagione, e ciò significa che, accompagnandolo alla conferma di assoluta illegalità per Anthony Davis e la definitiva consacrazione di un Jrue Holiday da 27 punti per gara, questa squadra ha già tutte le carte in regola per impensierire i Warriors al secondo turno. Considerando il positivo contributo di un Mirovic salito in corsa, capace di concludere le prime 4 gare di post season con 18 punti e quasi 10 rimbalzi per la lacciata di scarpe, la riconferma di Cousins nell'estate renderebbe questi ragazzi tra le squadre potenzialmente di punta per la Western Conference nella stagione prossima. Vediamo quello che succederà. Come abbiamo già lievemente svelato, i Warriors senza Stephen Curry hanno avuto la meglio sui San Antonio Spurs di LaMarcus Aldridge per un secco 4-1, dopo che l'orgoglio dei ragazzi di Popovic l'aveva portati a conquistare una vittoria dopo essere andati sotto per 3-0 nella serie. Che dire a questo punto di Golden State? Nessun pessimo segnale evidenziato in queste 5 partite, se non la possibilità di un non rientro di Curry quantomeno in avvio di secondo turno. È questa incertezza a rendere oscure le chance di successo dei campioni del mondo al momento, considerando che più tardi l'agognato rientro arriva e più difficile sarà per il giocatore di punta degli Warriors ritrovare fiducia, percentuali ed equilibrio per garantire un rendimento degno delle sue capacità. Rispetto agli Spurs invece abbiamo visto una squadra decisamente al capolinea contro la quale si è accanito di tutto in questa stagione. Se abbiamo imprecato contro la sorte durante la stagione regolare, man mano che si avvicinavano i playoffs abbiamo assistito attoniti all'assoluto abbandono di Popovic e i ragazzi da parte di quello che doveva essere il loro leader in campo, Kawhi Leonard. La grinta di un Manu Ginobili a tratti da abbracciare e strapazzare alla vista, che ci auguriamo possa tornare il prossimo anno, non può essere sufficiente, neanche se accompagnata agli ultimi fuochi di Gasol, Parker e Gay, neanche se affiancata al totem Aldridge e dalla crescita di DeJounte Murray. Serve qualcosa di più per rifondare, magari partendo proprio dalla contropartita in entrata seguente all'inevitabile scambio di Leonard, con un occhio anche alla free agency, altrimenti purtroppo il futuro per gli speroni del Texas non può apparire troppo roseo. E nonostante tutto e tutti, in ogni caso, uscire con l'onore delle armi contro i campioni NBA uscenti regala loro una stagione comunque dignitosa e meritevole di infinito rispetto. Benissimo, dirittura di arrivo per la nostra puntata di NBA Week. L'appuntamento con i playoffs NBA 2018 è rinnovato la prossima settimana. Per aggiornamenti eventuali seguiteci sulla nostra pagina Facebook che si chiama appunto NBA Week. Per ascoltarci invece gli appuntamenti non cambiano. Tutti i venerdì sera sul flusso streaming di Radio Big World, tutti i sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio alle 18 in streaming su Radio Valdarno. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo tra 7 giorni con NBA Week e i playoffs NBA.